Buonasera, eccoci alla puntata di questa sera, un appuntamento che abbiamo annunciato dalla pagina Facebook del collettivo ZAM e della casa editrice Prospero. Sono le 7 del 26 novembre 2020. E ci troviamo sia in un luogo fisico, sia in più luoghi fisici che in un luogo virtuale. Il luogo fisico è ZAM, Zona Autonoma Milano, che è un collettivo, che è uno spazio, che è un percorso politico che fonda la propria azione su quello che ha definito municipalismo libertario. Fisicamente la stanza da cui stiamo trasmettendo è in via Sant'Abbondio, periferia sud Milano, una periferia che questo collettivo ha certamente contribuito a rendere più vivace, viva e interessante dal punto di vista umano e sociale. Io sono un abitante di questa zona e sto partecipando con piacere alle attività del collettivo, che ha anche un sito. Il sito è zam-milano.it. Su questo sito si trova la web radio attraverso cui stiamo andando, tra virgolette, in onda. Abbiamo dei podcast, quindi questa trasmissione sarà registrata e si potrà riascoltare. E anche le precedenti presentazioni che abbiamo fatto di recente sono ascoltabili. Non ci sono ovviamente solo presentazioni di libri, anche se solo è dire, insomma, sembra irriverente, ma in ZAM si fanno tantissime attività, laboratori, polisportiva, hip hop, teatro, aula studio, insomma. È solo una parte dell'elenco che vi invito ad andare a scoprire sul sito. Le presentazioni precedenti, dicevo, hanno riguardato un libro ancora di Prospero Edizioni, Foglie di gelso, racconti palestinesi di e con Aysar Al-Saifi, e poco prima Il focolaio, da Bergamo al contagio nazionale, di Francesca Nava, un'inchiesta che ha rivelato molte cose sulla pandemia e la cattiva gestione, in particolare da parte della nostra regione. Questa sera stiamo per iniziare la presentazione di un numero, il terzo in particolare, della collana di geopoetica. Così poi ci spiegherete che cosa vuol dire geopoetica, associata alla rivista online QPod, di cui ci parlerà Alice Brioschi, che è di Buonasera. Buonasera, che è di Prospero Edizioni, appunto, e Angelo Miotto, no? Che è l'editore, che è il direttore o il co-direttore della rivista. La rivista di cui parliamo stasera si intitola Paure al plurale e mai tema fu più appropriato per il periodo che stiamo vivendo, anche se l'introduzione che Miotto scrive al numero in realtà non ha una visione del tutto negativa di ciò che a cui può servire la paura. Intesa anche come grammatica e come limite costruttivo, scrive. Ma prima di entrare nel vivo della rivista, chiederei ad Alice di raccontarci un po' che cos'è questa rivista, qual è lo scopo, qual è l'obiettivo, a chi si rivolge, cosa c'è dentro, insomma. Allora, grazie Eleonora, buonasera a tutti. Allora, Prospero Editore è una casa editrice della provincia di Milano. Ci occupiamo di letteratura in tutte le direzioni, quindi dalla narrativa con racconti, romanzi, poesia, teatro, saggistica, anche accademica. E da un anno, e qualcosa in più, ci siamo aperti anche alle riviste in formato libro. La prima è Zona Letteraria, ormai arrivata al quinto numero, ma parliamo di QCode. Il primo numero è uscito a novembre dell'anno scorso, quindi ormai un anno preciso fa, il 9 novembre 2019, in concomitanza con l'anniversario della caduta del muro di Berlino, e il primo numero fu Muri. QCode, per chi non lo conosce, non ha mai sentito questo nome, ma poi Angelo ce lo spiegherà meglio. portale web con articoli che arrivano da corrispondenti in tutto il mondo che cerca di tenere traccia dell'attualità secondo diversi punti di vista. Questi punti di vista si sono traslati nella carta, dall'online siamo andati controcorrente rispetto a tutti e abbiamo div fatto diventare un portale web, una rivista letteraria, una rivista in formato libro che esce ogni 6 mesi, quindi appuntamento a novembre e a maggio, a cui è possibile abbonarsi e si ricevono comodamente a casa 2 numeri l'anno. È proprio partita la campagna di abbonamento con il terzo numero Paure dopo i primi due Muri e Identità, uscito invece a maggio. Paure, beh, poi Angelo ci spiegherà un po' il titolo, ma serve proprio a leggere la realtà che ci attanaglia da più di 6 mesi. Ma senza mai essere banali, senza mai rincorrere le notizie, perché essendo un semestrale dobbiamo darci ampio respiro, raccontare qualcosa che, tra virgolette, non scada, e soprattutto QCode utilizza linguaggi differenti. Tu mi rifaccia quello che mi chiedevi all'inizio, a chi si rivolge? Un po' a tutti, è capace di parlare a diverse generazioni, a diversi tipi di pubblici, proprio grazie alla sua varietà di linguaggio, perché si alterna, come vedremo poi sfogliando un po' il numero, il reportage, l'inchiesta, rubriche tematiche, fotografie, graphic novel e via discorrendo. Quindi tanti tipi di linguaggi per parlare a tanti tipi di pubblico e soprattutto per affrontare un tema esplodendolo nei suoi mille significati. Ora io un po' mi taccio e lascio invece parlare un attimo Angelo, poi magari vi interrompo per fare qualche domanda qua e là. Grazie Alice, grazie Leonora, grazie ovviamente al collettivo ZAM, beh, ben trovati tutti quanti, quelli che ci vedono, quelli che ci ascoltano, la radio è il mio primo amore tra l'altro, per cui viva le radio, viva le web radio. Allora, paure perché? Beh, con Cristian Elia, che è l'altro direttore di Q-Code, ogni volta che c'è da mettere in piedi un numero, pensiamo delle parole di periodo. Il giornale è nato così, la rivista, abbiamo pensato: diamo una parola a ogni numero e su questa parola poi costruiamo delle declinazioni. A questo giro era paure, ma paure ci teniamo a specificarlo, ci abbiamo pensato prima addirittura del Covid, nel senso che secondo noi era una parola di periodo. Sono parole che tornano sia nelle azioni, quelle che noi viviamo in qualche maniera, quasi vorrei dire quasi di repressione, cioè quando ci inculcano paura attraverso i vari meccanismi che sappiamo anche della propaganda del mainstream, e sia invece una paura che riguarda le nuove generazioni, il lavoro, paure che riguardano invece il grande mistero della morte, che in fondo è quella cosa che da noi in Occidente soprattutto è ancora una cosa difficile da evocare, di cui parlare, che provoca molto spesso un umorismo scaramantico e che poco si affronta, diciamo, a livello invece di una realtà che esiste e che ha una sua storia, come vedremo poi nel numero. Quindi paure è stata la parola che abbiamo scelto in continuità dopo identità, muri, identità, paure, e preluderà a un'altra parola, ve lo dico già subito, che sarà quella del quarto numero, invece, che sarà impatti. Ecco, quindi queste parole sono come degli elementi fondativi originari di tutto quello che poi succede dentro una rivista, che è un po' rivista, è magazine, è un libro, perché il formato è un formato A5 molto, molto maneggevole, molto, molto comodo e anche molto facile da sfogliare. E a questo numero siamo arrivati a 175 pagine, quindi in realtà è un lavoro che mette insieme, dal reportage alla rubrica al dossier, fra poco li vedremo nello sfoglio, tanti elementi con dei formati diversi, con delle sintassi anche di racconto diverse, con tanti interventi di persone che possono essere giornalisti o meno, non abbiamo mai avuto preclusione assolutamente, ne è fatta una questione di categoria sullo scrivere, e dove, come vedrete, abbiamo anche chiamato diverse realtà a collaborare, quindi noi siamo anche una piattaforma che ci proponiamo ad altre realtà che ci sono vicine, con cui condividiamo ovviamente un respiro politico o comunque sia identitario, per mischiare anche un po' i pubblici, per cercare di essere cross, si dice adesso, no? Cioè, si dice di attraversare sostanzialmente quelle che sono anche le realtà identitarie di piattaforme come possono essere quelle di Ripimedia che fa giornalismo d'inchiesta, di Codici Ricerche che invece fa della sociologia il suo cavallo di battaglia, di Recommon che va a indagare sul malaffare delle grandi multinazionali sulle fossili, oppure ancora di Valori, come sapete, il giornale di fondazione etica. E non soltanto, si è aggiunta anche Transparency, molti altri probabilmente arriveranno, perché anche questa cosa di intrecciare con un articolo la presenza sul nostro giornale, sulla nostra rivista, per noi è un punto assolutamente di forza dal punto di vista editoriale. Ti faccio una domanda, prima di partire con lo sfogliare, anche solo se digitalmente, la nostra rivista, il nostro terzo numero, sul valore dell'abbonamento. Prima Eleonora fuori onda ci chiedeva come si sostiene un progetto del genere. È vero che siamo partiti con un lancio di un crowdfunding, ma poi è un giornale che deve camminare con le sue gambe. E certamente abbonarsi non è solo credere in un progetto, ma è credere in una visione, in una direzione, in un giornalismo lento. Quindi non è solo un ricevere a casa delle copie, ma proprio quasi fare un atto politico, è vero, Angelo? Sì, direi che questa è esattamente la parola giusta, atto politico. Allora, un bordereau di questo giornale, le famose 176 pagine di cui vi raccontavo, può valere sui 3.000-3.500 euro, dipende poi ovviamente da che cosa ci mettiamo dentro. Se pensate sia tanto, vi sbagliate ovviamente, perché per 176 pagine avere contributi scritti, reportage, fotografie, grafica, diciamo che siamo un bordereau davvero contenuto, però è un bordereau, nel senso che noi ci teniamo al fatto di riuscire sull'edizione cartacea, sul nostro semestrale, a retribuire tutti gli articoli, cosa che non possiamo fare evidentemente invece per l'online, visto la nostra formazione fin dall'inizio che non ha avuto, diciamo così, una previsione di sviluppo economico. Ma quando abbiamo creato l'online, il cartaceo, volevamo assolutamente invece che l'avesse, forti dell'esperienza del sito. Allora, cosa succede? Che noi raccogliamo attraverso la parola dei concept, delle proposte. Vedremo fra poco, c'è anche una call for entries che lanciamo già dal numero scorso, è la prima volta e lanciamo già subito, quindi questo numero per il prossimo su Impatti, per cui chiunque può mandarci una sua idea per sviluppare un pezzo, un'intervista. E poi dopo gli risponderemo. E viene assegnato il lavoro e noi abbiamo la capacità di raccogliere della pubblicità, per il momento poca, ma su quello Ai stiamo noi. puntando. Sì, ma noi puntiamo invece a riempire quelle poche pagine di pubblicità che abbiamo messo rispetto alle 176. Per ora siamo su 7-8 pagine di pubblicità e in realtà sono due di quelle di pubblicità vere e proprie, le altre sono realtà nostre amiche che ospitiamo volentieri. La pubblicità è importante, faccio un piccolo inciso, perché aiuta nello sfoglio, per cui al di là della questione economica è anche una questione tecnica. Un giornale senza pubblicità va benissimo, però la pubblicità dà un dinamismo maggiore allo sfoglio, perlomeno questo è quello che abbiamo imparato in tanti anni. E poi ci sono gli abbonamenti. L'abbonamento è un gesto politico, è anche un abbraccio, direi io, un abbraccio al giornalismo indipendente. Questa è una cosa che sappiamo da tanto tempo che è importante, che riguarda molto la nostra era, dove ci lamentiamo del mainstream, abbiamo a disposizione un'infinità di luoghi dove informarci e dove secondo me è giusto che andiamo a premiare determinati prodotti che sentiamo in sintonia e che ci piacciono anche nella fattura. Quindi in realtà c'è la possibilità davvero attraverso l'abbonamento, che sono 28 euro per due numeri, di dare una mano al giornalismo indipendente. In questo caso il nostro, non ci facciamo assolutamente problemi di quello che in Italia è la concorrenza vissuta così male. Ci sono altre riviste che hanno altri tipi di tagli, di formati, di interessi che sono altrettanto interessanti, sono quelle che chiamiamo per esempio anche a collaborare con noi, per cui non è un venite da noi, non dagli altri, ma è guardatele, leggete, se vi piace prendetelo. in quel momento voi diventate sostanzialmente dei sostenitori non solo di Q-Code, ma anche di una maniera di intendere il giornalismo e una maniera di intendere anche il finanziamento agli organi di stampa indipendenti. Già che ci siamo, lo diciamo, basta andare sul sito di Prospero Editore, www.prospereditore.it, e andare nella sezione dedicata alle riviste, nella quale si trova il link di Q-Code, e c'è una tesserina abbonamento, basta schiacciare e si può andare e sostenere il numero Paure, ma anche Impatti, e riceverlo appunto a casa, oppure c'è anche un direct link sul sito di Q-Code Mag, giusto Angelo? Esattamente, queste sono le informazioni. Le So che coordinate. il nostro editore sta lavorando per potenziare questo, quindi Prospero sta lavorando per potenziare questo sistema. Yes. Sui siti trovate tutto quello che c'è bisogno di sapere, sui nostri ovviamente post che pubblichiamo lo raccontiamo e faremo anche qualche campagna pubblicitaria in più. L'importante, ecco, è che si crei quella che già per il sito si è creata, cioè una comunità che si ritrova intorno a un mezzo di comunicazione che ha il fiato lungo, nel senso che 6 mesi è un tempo molto interessante di lettura. Questa è un'altra battaglia che noi facciamo spesso per quanto riguarda... È un giornalismo diverso quello a cui siamo abituati ad aprire sul cellulare tutti i giorni? Beh sì, comunque sia, al di là che è diverso, proprio è una questione di prendersi il tempo di poter leggere con calma, però, anche Angelo, se possono solo alcuni pezzi avere calma. È diverso rispetto al giornalismo di tutti i giorni, è diverso per diversi motivi, diciamo già per la portata, nel senso che noi diamo una parola di periodo e non stiamo solo attualità stretta e stringente, appunto essendo un semestrale. Siamo un semestrale di geopoetica, così lo diciamo subito che cos'è, e cioè andiamo a raccontarvi quello che era la geopolitica attraverso delle storie. Quindi le storie che raccontiamo diventano motivo anche per apprendere e per spiegare, o per raccontare meglio ancora, quali sono anche i meccanismi di geopolitica. E questa è una distinzione importante che abbiamo scelto di abbracciare, perché ci permette di essere anche più interessanti, forse, non soltanto di un'analisi molto stretta e anche molto tecnica a volte, sicuramente interessanti quelle che si leggono in giro sui quadranti, la geopolitica o sull'economia, la finanza ovviamente, ma sempre mettiamo al centro una storia o un appiglio che a volte è più narrativo, a volte un po' meno, però che fa in maniera che la cosa sia raccontata, che ci sia dietro insomma anche del calore, oltre a quella che è giustamente l'analisi che si può fare. Quindi noi siamo diversi per questo motivo sicuramente, cioè tanto per la frequenza e i temi che scegliamo, ma anche per la maniera di intendere il giornalismo. Siamo apertamente in polemica col mainstream, come potete immaginare, un po' per le nostre storie anche di chi dirige questo giornale, ma anche perché riteniamo che ci sia una qualità da preservare e che la stessa fretta che c'è adesso di pubblicare sia una fretta che poi induce anche in maniera colposa a essere piuttosto banali e sciatti ai tempi di superficiali. Ma Angelo, che dici? Sfogliamo? Guarda, prima di sfogliare, mentre sfogliamo, anzi, io ti invito a un'angolatura da cui ti chiederei di sfogliare questi articoli, perché appunto dici che la paura è la parola di contesto che avete scelto, e io sento molto anche la parola crisi in questo momento. Allora, siccome gli articoli della rivista attraversano molti contesti e la paura è una relazione al contesto, vediamo che c'è molto Medio Oriente, Iran, Iraq, Tunisia, Turchia, Albania, ma c'è anche l'Europa, allora se hai voglia, se insomma se pensi che sia utile, in che modo nei contesti che queste storie attraversano si risponde con la paura oppure no, a quella che forse mi sembra che sia uno scenario ricorrente, quello della crisi nei contesti che sono raccontati in questa rivista. Sì, allora, diciamo che il contesto della crisi per quanto riguarda la paura sicuramente è sviluppato in quello che stavi dicendo tu, una delle storie che intanto la prima crisi che Possiamo far vedere, se volete, nella fotografia che abbiamo all'inizio del giornale. Ecco, qui la vedete, pian piano arriverà su due, intanto la faccio vedere anch'io nel mio piccolo. E la fotografia è una fotografia che abbiamo dedicato al Covid, nel senso che la rivista sostanzialmente non parla di Covid. Abbiamo fatto una scelta di campo estrema. Abbiamo parlato tanto di Covid, è stato scritto tantissimo e si sta scrivendo ancora e si scriverà. Non tutto è stato scritto in maniera particolarmente interessante, ma quello che volevamo evitare era di finire dentro un circolo, in un circolo già in qualche maniera molto stressato e non metterci delle cose particolarmente originali. Quindi per noi la fotografia era importante che avesse questo merito e poi se ne riparla, diciamo, tangenzialmente nell'articolo di Sarah Jazzi quando si parla dell'Iran. Allora, andando avanti con lo sfoglio, e intanto contestualizzo a seconda della domanda che mi faceva Eleonora, ci sono questi due pezzi che vedete passare in questo momento, che sono due Elzeviri, no, prima, grazie, due Elzeviri affiancati. Dovete immaginare appunto che da una parte c'è la paura che ci scava, che era quello precedente, poi la paura che ci salva. Questa intanto è la prima cosa che abbiamo voluto mettere a fuoco con Cristian Elia, e cioè il fatto che la paura può essere qualcosa che davvero fa paura e che crea quindi un primo sentimento negativo, oppure può essere anche quella paura animale, cosa che si lega peraltro al concetto di crisi, che cerca anche di farci stare attenti, di farci alzare le antenne, di non farci finire dentro a un pericolo sostanzialmente. Quindi sono già la parola ha delle accezioni particolarmente diverse. E poi parte tutta quella che è la sezione dei nostri reportage. Prima c'è l'intervista e poi il reportage. L'intervista è un'intervista molto interessante perché l'abbiamo chiamata Anatomia delle paure irachene, Omar Mohammed. Qui siamo proprio con le parole del personaggio che si è rivelato essere poi l'autore del blog Mosulai, che era l'unica fonte di informazione indipendente dalla seconda capitale dell'ISIS, che aveva deciso di rivelare quindi la sua identità. Questa è un'intervista, sì, che effettivamente parla di una crisi, che è quella medio orientale, ma non soltanto, ed è anche una crisi che ci riguarda ovviamente, e riguarda molto anche tutto il percorso dell'informazione, come dicevamo prima, rispetto alle differenze, che la differenza stessa che è stata fatta dall'autore di questo blog ai tempi di questa narrazione rispetto a quella invece che è la grande narrazione mainstream che siamo abituati a vedere. Quindi ci tenevamo che ci fosse, come sempre, in tutti i numeri, un'intervista ad aprire. L'intervista spesso può avere anche dei connotati che non sono esattamente in linea con quello che magari pensiamo noi. È successo nel primo numero in maniera molto evidente Muri. con Muri. Dicevo dei reportage che seguono l'intervista. E il primo reportage che abbiamo è La Casa delle Foglie. Qui è Cristian, Chico Elia che ha scritto con le foto molto belle di Camilla De Maffei, e siamo dentro una paura molto particolare, quella della Segurimi, quindi siamo nella polizia politica di Enver Hoxha. È un racconto di quanto faceva paura questa Casa delle Foglie, una struttura che aveva vicino appunto degli alberi da questo nome. Cristian è riuscito a trovare ovviamente e a spiegare dal punto di vista architettonico, dal punto di vista dei racconti, delle paure, della paura anche semplicemente evocata e che cosa. Anche ricordata, quindi non stiamo solo nell'attualità di oggi, ma anche del passato, una paura che era di prima e che ti portiva avanti, dietro. Sì, c'è sempre diciamo così, un percorso che unisce questo, come stai dicendo, Alice, che riguarda appunto il reportage di Chico Elia e Camilla De Maffei, e visitare quella stessa struttura è qualcosa che ci parla di un qualche cosa che è passato e che però non è rimasto, ahimè, unico storicamente sì, ma non è rimasto unico come concetto invece di paura che riguarda il controllo sfisiante, il controllo delle nostre vite, delle nostre identità. Il secondo reportage invece è proprio incentrato più su quello che dicevo prima, cioè sulla questione della morte. Ci sono alcuni pezzi che vanno a interrogarsi sulla morte e la paura di morire. Qui vedrete, avete visto la faccia di un signore molto simpatico con i capelli rossi, e barba e baffi, ed è il personaggio che è stato inventato da Felicita Sala, che è una grafica illustratrice, per un'idea che ha avuto Mauro Mercatanti. Si chiama La Grande Rimozione, si chiama La Grande Rimozione il secondo reportage, ed è quello che è stato scritto dal Barbisa. Ora, eccolo qua, dal Barbisa. Il Barbisa è questo personaggio di cui vi dicevo, e Mauro, che l'ha inventato ovviamente, gli dà voce, e il suo ragionamento è un ragionamento da seguire passo passo rispetto a un'esperienza che lui ha fatto come start-upper, dove si era inventato una scatola dei ricordi chiamata Don't Share. E Mauro qui ci racconta attraverso il Barbisa come ha costruito questa esperienza, che poi non è andata particolarmente bene. E questo fatto lo dico perché è interessante anche vedere il perché non sia andata bene una startup su questo argomento, che è legato profondamente ai concetti che dicevamo prima, appunto, sulla difficoltà di interrogarsi sulla morte, soprattutto in Occidente. Prima di andare avanti, spiegherei a Alice di dire qualche cosa, così io bevo un bicchiere d'acqua e torno subito, perché sennò potrei morire qui di fronte a voi e non sarebbe un bello spettacolo. E ci farebbe molta paura. Ah. Beh, per stemperare un po' questa attesa, già abbiamo potuto vedere i linguaggi differenti, no, Eleonora, in queste prime pagine. Ma non riveliamo chi è il Barbisa? Che cosa fa? Perché per me è stata una scoperta, ho detto ma grandioso, ma perché non lo sapevo? No, lo lasciamo un mistero? Lo lasciamo dei misteri, che già sfogliamo tutte le 100 pagine, e questo vorrebbe essere un po' il nostro intento, raccontarle un po' tutte, però alcune chicche le vorremmo lasciare, sperando che chi ci ascolta acquisti, compri, regali, visto che ci avviciniamo anche al Natale, Q-code, ma io credo anche che parlare di paure serve anche ad affrontare le paure e a un po' esorcizzarle, permetterci di parlare di quello che ci spaventa aiuta sempre un po' a passarci sopra. Quindi vedere anche quelle che sono le paure nel mondo, sempre come vedevamo in maniera differente di adesso, del passato, di casa nostra, ma anche irachene, è un messaggio importante, anche personale, a cui ognuno di noi potrebbe far risorsa le proprie capacità per andare avanti, per tenersi compagnia leggendo qualcosa di costruttivo. Ecco, Angelo, ho detto una serie di banalità e ora ti lascio la parola. No, mi sembra andarsi bene, ma soprattutto io sono vivo, per fortuna, e essendo vivo posso dirvi che il giornale prosegue poi con delle rubriche. Per esempio c'è il glossario di Isidora Tesic, che è un... A me il glossario piace sempre molto, è una cosa, poi letterariamente parlando, è una cosa molto bella, che si metta anche l'attenzione sulla parola, sulle parole. Torniamo un attimo indietro con le slide, che siamo troppo avanti, siamo andati già, anticipiamo. Eccoci qua. Ecco, dicevo semplicemente, Isidora appunto è una ragazza che studia medicina, ma in realtà è una poetessa, per cui anche questo è molto interessante, no? E ha un amore spassionato per la poesia, e quindi ci racconta attraverso le parole di alcuni poeti. Avete già visto un personaggio inquietante, una citazione cinematografica ovviamente, che abbiamo amato fare, ed è quello per La Storia della Morte, cosa di cui scrive Monica Priante. Interessante vedere proprio il dato culturale di come è stato affrontato nel corso degli anni, dei decenni, dei secoli, anche il rapporto dell'uomo con la morte. Quindi vado più veloce su queste cose perché voglio tenere lo stimolo di Eleonora sulla crisi, ma dopo La Storia della Morte, quindi proseguendo, andiamo su quello che noi viviamo un po' come un inserto che ci porta quasi fino a metà rivista, che è una specie di dossier. Questa volta l'abbiamo chiamato Un mondo di paure, lo vedrete poi ha una serie di cerchi concentrici gialli e neri, e in questo caso gli articoli che abbiamo scelto per questo Per questo dossier Che non si vede più, riguardano eccolo qua. soprattutto, Arriviamo. sta arrivando, sta arrivando. pian pianino. No, ci... Mentre la regia sfoglia, Angelo, diciamo ci sono anche questa Che bella cosa? grafica che accompagna i lettori lungo tutti i nostri numeri. La grafica è tutta l'art direction del numero di Giancarlo, che adesso io ho un vuoto di mente, ma tu mi aiuterai a dire perché mi sono Giancarlo dimenticato. Pasquali. Pasquali, ecco perché stavo dicendo una cosa sbagliata, di Giancarlo Pasquali, che ha creato sostanzialmente l'art direction della rivista. Non soltanto, ma in questo numero firma anche alcune delle immagini di copertina di alcuni pezzi. Dicevo di questo dossier, così con questa paura che è raffigurata graficamente da Giancarlo in questa maniera, che riunisce diversi pezzi, come diceva, articoli, come diceva prima Leonora, anche che vengono dall'estero. Quindi abbiamo la paura sociologica dell'Iran, è un racconto molto interessante di Sara Egyazi, la Tunisia, dove c'è la paura. Invece, nell'assenza, la questione dei desaparecidos, che noi chiamiamo così per la tristemente nota questione degli scomparsi in Latino America, ma qui siamo in Tunisia, e invece già da Frana e Chedli Ben Ibrahim ce la raccontano in una maniera interessante, sia dal punto di vista dello scritto che della fotografia, che ci dice molto con questi ritratti dei parenti delle persone scomparse. E poi abbiamo un ragionamento di Simone Benazzo che riguarda invece il populismo, lo spopolamento Certo. nell'est Europa, e qui Stiamo è andando un qualche. velocissimi e Sì, molto vado veloce più veloce perché. dello scroll. Eccoci qua. Vado Allora, veloce questi sono i perché ci diamo ritratti. un'idea intanto, sì, Sì, e qui siamo infatti al nell'est populismo, Europa. popolamento nell'est Europa. Simone Benazzo, dicevo che tra l'altro in questo stesso momento sta presentando la rivista Trieste. In collegamento con Cristian Elia. Sì, il QR code è qui, è ovunque, Beh, è un'entità. avere due direttori è utile, per fortuna. E quindi qui parliamo del calo del numero di abitanti che si sta verificando in questo pezzo di Benazzo e che si abbatterà con crescente vigore, scrive, sulla metà orientale del continente europeo. E qui c'è una paura che è legata ovviamente a quello che può causare questo spopolamento, e però anche a un discorso politico in cui si fa notare come i sovranisti, che in realtà avrebbero voluto cavalcare questa bestia, invece la stanno sostanzialmente causando. Quindi è un cortocircuito molto E interessante. qui mi inserisco un attimo velocemente perché c'è un aggancio con la cronaca fortissimo, perché proprio oggi il Parlamento europeo ha votato una risoluzione a sostegno delle proteste delle manifestanti in Polonia. In Polonia le donne hanno cominciato a fare manifestazioni per la difesa del diritto all'aborto, in realtà che era già ridotto al lumicino prima, però con le ultime sentenze, diciamo, del governo, delle corti locali, il diritto è stato ulteriormente ristretto e sappiamo che stanno scendendo in piazza da settimane a decine di migliaia e poco si dice in Italia di quanto la repressione sia forte, di quanto violentemente siano represse queste manifestazioni. Quindi non è un tema di questo articolo, ma è anche indirettamente un tema di questo articolo perché la protesta delle femministe polacche ha innescato praticamente una sorta di rivoluzione. Adesso forse sto ingigantendo, ma mi direte voi, rispetto al regime fondamentalista cattolico che in questo momento c'è in quel paese. Parlo della Polonia perché la Polonia è una degli stati citati in questo percorso che viene fatto da Simone Benazzo. E il legame è forte, no? Perché appunto si tenta in questi paesi di contrastare il calo della fertilità attraverso politiche familiste, ma con bonus irrisori e cercando di limitare la libertà di scelta, non solo delle donne, ma anche delle personalità LGBTQI, e allo stesso tempo si distrugge il welfare. Quindi mi serve per dire che questi articoli sono molto utili a dare anche un contesto, appunto, di nuovo torna questa parola, a temi di attualità che, consumati nell'attualità, spesso rimangono un po' senza sfondo. Cosa dici? Sì, questo è un riflesso che è interessante, quello che citi, al di là della questione specifica della Polonia, dove la parola rivoluzione io la userei tranquillamente, come fai, ma la questione è anche che ci siamo accorti che scegliendo dei temi di periodo non rinunciamo poi ad avere un impatto sulla cronaca. E questo è, diciamo, forse la cosa più difficile da fare per noi, e cioè quando sia il momento di scegliere i pezzi, capire quali pezzi possano avere anche dei risvolti o delle risonanze, come in questo caso, con l'attualità. È successo per, diciamo, un caso che non è un caso, il fatto che avessimo scelto paura, ovviamente non potevamo prevedere che arrivasse il Covid, però ovviamente questo per noi ha esaltato la questione delle paure di cui scriviamo. È successo molto spesso nei pezzi che abbiamo pubblicato già in tutti questi tre numeri della nostra rivista, di vedere come la cronaca poi su diversi quadranti o sullo stesso quadrante arrivi a intrecciare un momento che è quello che noi utilizziamo nel giornale per fare riflessione. Quindi questa cosa per noi è importante anche informarsi bene nello stretto, avere contezza di quello che sta succedendo. Per noi questo vuol dire ovviamente mantenere la nostra azione sul sito, su quicodemag.it, e avere però uno strumento di lettura più analitica che ci possa stimolare o sulla notizia dello stesso quadrante o per simpatia, in senso più originale del termine, quindi in qualche cosa che si svolge proprio perché qualche cosa risuona. Siamo arrivati dopo questo articolo, oltre la mezz'ora del nostro incontro, quindi devo andare più veloce, siamo arrivati alla Turchia. Il mondo segreto dei criptoarmeni. Ci sono dei sopravvissuti del genocidio che sono rimasti in Anatolia e ci raccontano le loro storie. Ce le raccontano Giulia Paltrinieri con le foto di Fatemè, Sara Gabuardi e Malek Kimino, la loro paura rispetto al fatto di essere una minoranza, una grande minoranza, avere una storia particolare e quindi anche come vivono questo criptoarmeni, armeni nascosti. E poi c'è la graphic novel. Siamo arrivati alla fine del nostro dossier. Ed eccoci arrivare pian pianino, lo vedo che stiamo scrollando, eccoci qua. Qua passiamo alle pubblicità di cui prima dicevamo, il tessuto giornalistico che si intreccia. Sì, questa per esempio è IRP, andiamo avanti. Sì, e abbiamo la paura firmata da Enrico Natoli. Enrico Natoli è un membro fondamentale della comunità di Q-Code e oltre a firmare la matita ogni giorno su Q-Code è anche indispensabile sempre per noi perché ha sviluppato il sito, ci dà una mano ovviamente in tutte quelle che sono le nostre pubblicazioni e poi in questa storia che ha pensato per il numero ci racconta le nostre paure fin da quando eravamo piccoli, come ti hai visto all'inizio, invece alle altre paure, sono paure più legate a fatti politici e fatti di repressione che sono accaduti dal G8 a Cucchi. Dalle promesse di Berlusconi a invece altri fatti che sono stati significativi come il bullismo da ragazzi, per arrivare poi a una conclusione che è questa che vedete, questa la possiamo spoilerare e che dice appunto Enrico, alla fine lui quello che sta parlando, che dice ora capisci che non c'è nulla di personale e che non posso aver paura anche di te, e lo dice alla morte. Ecco, questa cosa della morte che torna è interessante anche perché Enrico non sapeva ancora al momento in cui aveva creato questa storia di che pezzi sarebbero finiti nel nostro timone, e quindi questa cosa è davvero interessante come collegamento. Giriamo pagina, giriamo pagina, c'è una bellissima copertina di Giancarlo, il supereroe e la paura. Molti dei supereroi nei comics, ce lo racconta Luca Rasponi, partono da un elemento di paura. Loro stessi hanno paura prima di diventare dei supereroi. E quindi Luca Rasponi, che è autore della Nona Arte come rubrica sul sito, che parla appunto di fumetti, ci racconta alcuni dei personaggi e di questi personaggi qual è il nesso appunto con la paura, con la diversità, che la diversità ovviamente crea un sentimento spesso di paura. Gli X-Men sono una delle dimostrazioni più forti. Angelo, scusami, ti interrompo per fare una parentesi, visto quello che stavi dicendo. Cioè, un po' come abbiamo notato nei precedenti incontri, fortuitamente forse, o sensatamente, pensatamente, le parole dei tre numeri si intrecciano, in questo caso le paure e le identità. Le identità altre possono spaventare, l'identità è il numero 2 di Q-Code, e le paure possono, insomma, alimentare la diversità delle identità. I supereroi ci danno uno spunto, ma è un nesso molto forte questo. Ah, Sicuramente sì. devo Prego. aggiungere una domanda a questa di Alice, perché questi supereroi sono tutti maschi. E allora c'è forse un legame tra paura e virilità? No, non, No. no, no, direi che è più una questione anagrafica dei fumetti, secondo me, nel senso che qui abbiamo riportato nella scelta di Luca Batman, che è appunto Daredevil. Superman, gli X-Men, dove ci sono delle donne, per fortuna, se no sarei stato un po' ingabbiato nella risposta, e invece poi la visione è un po' peggio di un uomo, un po' meno di una bestia. No, non credo che, sicuramente, diciamo così, visto che l'elemento patriarcale è così forte nella nostra società, la risposta è sì, però sarei più ottimista dicendo invece che non credo, nel senso che la virilità e la paura sì, possono andare insieme, ma credo che ci sia un riflesso più generale che ci porta dentro la nostra cultura a dover affrontare questa tematica, che poi si riflette ovviamente non sui nostri articoli in quanto tale, ma sul materiale che hai a disposizione. Quindi l'osservazione è pertinentissima ed è un discorso che ci porta a parlare di una paura che dobbiamo avere in più, La forse, no? prendiamo Quella. dal lato limite costruttivo, vai. Sì, io direi di sì, Ma assolutamente. non dobbiamo aver paura delle identità altre. No, questo mai, non dobbiamo avere paura delle identità altre, assolutamente, e noi lo andiamo a vedere anche con un fattore che riguarda l'arte. Ecco, l'arte è una cosa che interessa molto a Q-Code dal punto di vista di quello che può esprimere. Abbiamo chiesto a Bianca Bozzeda, anche lei per esempio veniva dalla Call for Entries, e a Giusia Fronti invece, che è una collaboratrice da tempo di Q-Code, di affrontare arte e paura. Una ci ha parlato della paura dei ladri, cioè la questione della restituzione dei beni artistici che spesso sono stati sottratti in tempi bellici o meno, e l'altra invece, Giusy, ci parla di un personaggio davvero particolare. E il titolo è molto bello, devo dire: Chi ha avuto paura sogna più forte. Il personaggio particolare è Gustav Messmer, un artista outsider, che scrive, le foto sono anche molto belle, che vengono pubblicate e fanno veramente volare l'immaginazione, quindi le consiglio. Arriva Irpi e ci porta sul giornalismo d'inchiesta, in questo caso Lorenzo Bagnoli ci racconta dell''Ndrangheta. Irpi in genere ha diverse pagine a disposizione perché è una realtà di giornalismo d'inchiesta, sono molti anni che ormai sviluppa questa sua propensione con profitto, nel senso che è riuscita a conquistarsi un posto fra le grandi realtà internazionali dell'inchiesta giornalistica, e quindi siamo particolarmente contenti noi di avere Irpi sulla nostra piattaforma. Dopo Lorenzo Bagnoli che ci racconta dell''Ndrangheta, delle paure, Qui da e noi, della paura al nord. al nord, ovviamente, ormai lo sappiamo, siamo in un'altra collaborazione, quella con Codici Ricerche, Massimo Conte, che racconta la lingua della paura. Massimo racconta, ho sbagliato io lo sfoglio, scusate, sì, ho sbagliato io, fermi tutti, paure nascoste in cuori stranieri, siamo in realtà a un articolo di Gabriella Grasso. Qui Gabriella ha un'attività di seminari di autonarrazione biografica e lo fa spesso con persone che arrivano da altri paesi. E questa cosa ci sembrava molto interessante per cercare di intercettare quali potessero essere le paure, non soltanto durante il viaggio, durante la fase di arrivo nel nostro paese, ma anche e soprattutto un attimo dopo. Quindi in realtà le testimonianze che le raccoglie e di cui scrive sono molto interessanti da leggere. È la paura di chi è arrivato finalmente in un posto dove pensava di essere riuscito a scampare determinate paure e ne trova altre. È interessante come si preoccupino loro della nostra paura nei loro confronti, di come cioè, si pongono il problema, ma è come se proprio si mettono nei panni delle persone che incontrano qua. Sono veramente dei racconti bellissimi. Dopo Gabriella Grasso siamo invece a quello che dicevo prima, la Massimo Conte, Codici Ricerche, la paura, la lingua della paura. Massimo si interroga sulla paura come parola, dice, ma io starei un attimo attento anche a usare questa parola e porta diciamo così, a dimostrazione della sua tesi tutto un ragionamento. Noi siamo particolarmente contenti anche qui di avere Codici Ricerche, Massimo Conte, Stefano Laffi e tanti altri di codici che sono davvero delle persone che si interrogano a fondo e che vivono allo stesso tempo anche il territorio, quindi hanno sempre questa duplice natura che permette loro di scrivere delle cose davvero, davvero interessanti. Ecco, leggiamo qua: paura, ansia, angoscia risuonano in noi, ma riguardano la nostra esperienza di noi nel mondo. Questa parola esperienza direi che sta proprio quello che vi stavo raccontando anche della maniera di lavorare di Codici Ricerche. Dopo questa bella illustrazione, che sempre grazie Giancarlo Pasquali, arriviamo a Transparency. Transparency, la prima volta che collabora con noi, che abbiamo lasciato uno spazio a raccontare di corruzione. Ovviamente è un tema che si spiega da solo rispetto alla paura, specie per chi conosce le trame della corruzione. E Transparency ovviamente le conosce bene, porta dei dati e porta anche la sua esperienza, che è il proprio lavoro, insomma, per quanto riguarda la corruzione in Italia. Che costa tantissimo. Finalmente arriviamo a Clara Capelli. Questo è un pezzo molto interessante che sicuramente è piaciuto a Leonora, immagino. Paure e diseguaglianze. C'è una bellissima citazione qua, ecco, la state vedendo adesso, del compiantissimo Luciano Gallino. Che davvero era un intellettuale molto lucido nello spiegare quelle che sono le storture e le brutalità del capitalismo. Sì. E Clara ha fatto un lavoro interessante, è andata a prendere delle dichiarazioni di manager e delle dichiarazioni di lavoratori, le ha riportate in rete su YouTube, e le ha riportate in questo suo inizio del pezzo e poi durante lo scorrere del pezzo per raccontarci appunto di quanto può essere forte la paura dentro la dinamica del lavoro, della diseguaglianza, e Giancarlo le ha illustrate in questa maniera che secondo me è molto piacevole da vedere. E quindi proseguiamo su quello che è un lavoro che stiamo facendo anche con il sito, di interrogarci sempre di più sulla struttura economico e finanziaria rispetto poi a quelle che sono le esperienze del lavoro, le esperienze della società. Siamo a una paura che molti dei nostri ragazzi hanno, la paura del futuro del mondo, quella che riguarda i cambiamenti climatici, cosa possiamo fare, sembra che non possiamo fare niente. Quindi abbiamo chiesto a Gianluca Ruggeri, che è un ingegnere ambientale, di raccontarci questa tematica cercando di andare a trovare un taglio in cui non farci particolarmente paura su questa cosa, ma aiutarci a vincerla. Per questo diciamo che la speranza è un atto di volontà, lo scrive lui, solo l'azione rende accettabile l'impensabile. Forse è anche un po' un messaggio che dobbiamo dare ai più giovani, e cioè che è vero, la situazione è tremenda, ma se ci fermiamo a dirlo e basta, non può di certo migliorare. Quindi questo cercavamo proprio questo messaggio. E qui E infine siamo. Sì, prego. forse è uno dei terreni su cui la parola crisi si può dispiegare anche nel suo potenziale di cambiamento, di venire a galla e di possibilità di cambiare qualcosa che evidentemente non funzionava. Una paura che provochi una reazione, certo. E Ed è alla anche una fine. paura che è stata un po' subissata, c'era molto presente anche nell'attualità fino a prima del Covid, che ora invece è stata un po' Beh, il Covid risucchiata. ha mangiato tutto purtroppo, sì. Esatto. Era un momento molto forte della protesta, soprattutto dei ragazzi più giovani con i Fridays for Future, e poi dopo questa cosa un po' si è inabissata. In realtà poi loro proseguono, come abbiamo visto, con forme digitali. Allora, c'è la parte del cinema. Uno è questo film che ci racconta Alessandra Chiappori, che è A rivedere le stelle, altro bel titolo che è il titolo del film, un film che è stato bloccato proprio dal Covid nella sua uscita, ma che parlava della reazione dell'uomo rispetto a un clima di emergenza e incertezza. Quindi sembrava interessante proprio che ci fosse su questo numero di paura ed è una proposta che è arrivata anche questa grazie alla call che abbiamo fatto. E l'altro invece abbiamo chiesto a Luca Bergara di Movie Days di fare una specie di piccolo cineforum della paura con dei titoli storici, alcuni dei titoli storici. I film sulla paura ce ne sono veramente tanti, al di là del settore dell'horror, che è una cosa un po' diversa, però abbiamo approfittato per fare questa divagazione in tema cinematografico. Dopo questa sezione del cinema, vedrete appunto fra poco, scorrendo la nostra call for entries. Ancora su una pagina, eccoci qua per il Q-code numero 4. Cosa facciamo? Noi raccontiamo qual è il tema, come lo vogliamo declinare e poi diciamo quali sono i termini della call. La call sarà aperta a tutti dal 7 gennaio e fino al 7 febbraio, in maniera che poi io e Chicco si possa guardare tutte le idee e i concept e poi scegliere quali possono arrivare a essere pubblicati sul nostro giornale. Chiude tutto quanto il numero. Scusa Angelo, su questo, quindi si manda il concept, un Sì? abstract, un riassunto, e poi quanto tempo c'è per scrivere? Scrivere? Beh, fai conto che 7 febbraio il numero esce a maggio, quindi c'è un mese, direi. Chiaro. Un mese secco. E poi abbiamo il cibo che non potevamo tralasciare perché è Michela Prea che ci ha mandato questa. Tra l'altro, lo descrive benissimo sul suo Facebook. Michela Prea diceva una cosa personale che posso riportare visto che è pubblica sulla bacheca. Michela racconta della nostra collaborazione su questo numero, dicendo che era un periodo, insomma, dove non ne aveva tanta forse energia, non sapeva, voleva scrivere. Poi è capitata su questa call for entries e ha detto: ma sì, provo a proporre quest'idea. E allora abbiamo visto e abbiamo detto: beh, interessante questa cosa, no? La paura, mangiati dalla paura, questa paura che riguarda il nostro rapporto alla fine con il cibo. L'abbiamo citato nel quote: siamo ciò che mangiamo, come dice Ippocrate di Cos, e un po' ci viene anche paura a reggere questo quote, nel senso che se pensiamo anche a volte gli stravizi che facciamo, specie durante il lockdown, facciamo forse anche un po' fatica a capire da chi davvero siamo. Il tutto condito con queste grafiche che ha creato Giancarlo sui consumi alimentari e i consumi prodotti alimentari. Insomma, il tema del cibo, come sapete, è stato un tema anche molto raccontato da dei bellissimi documentari rispetto a come mangiamo male, come mangiamo in maniera sbagliata e anche come viviamo poi male, nel senso che e di questo c'è davvero un po' paura, non siamo fatti per vivere o per mangiare in questa maniera. E quindi il dibattito su questa cosa è sicuramente avanti, ma anche qui molto difficile da far capire forse nei periodi più formativi dei ragazzi, no? Direi con un occhio a quello che succede E tra l'altro quando ancora si può rimediare. è strettamente connessa con il tema ambientale di qui sopra, nel senso che ciò che mangiamo impatta anche su il consumo, sulle energie, e quindi è un tema caro anche ai ragazzi da questo punto di vista, l'allevamento intensivo e tutto ciò che ne consegue. Sì, diciamo che questa sensibilità che notiamo nei più giovani è sicuramente qualcosa che non abbiamo avuto. Io parlo per la mia classe di età, quella del 69, e avendo delle figlie adolescenti riesco a capire quanto si sia fatto in più come, diciamo così, come attenzione rispetto a quello che sono i consumi, quello che è anche l'educazione al cibo, e quindi c'è questo discorso. Poi bisogna traslare tutto questo discorso invece sulla società come corpo sociale molto più ampio, e qui invece ovviamente siamo distrutti da tutto ciò che è il circuito pubblicitario e quello del profitto, per cui non ci si fa nessun tipo di remora a propagandare dei cibi che analizzati in sé in realtà merendine, cose eccetera, in realtà fanno male, però Perché fa paura non parlare di alcune cose. fa più paura che non fare profitto, quindi Esatto. hanno paura di questo. Ma infatti una delle cose che stupisce, di cui che insomma lascia sbigottite rispetto a tutto questo grande tema appunto della crisi ambientale, è che sembra quasi impossibile, cioè sembra impossibile, è più facile immaginare la fine del mondo che la fine del capitalismo. Ma Credo noi che non siano ci stiamo, conseguenti. non ci stiamo. Sì, diciamo che su questo invece come giornale portiamo avanti ovviamente una linea dove diciamo sveglia ragazzi, diamoci da fare, insomma, no? Nel senso che è vero ed è anche vero che però le vie ci sono e anche i ragionamenti. Credo anche, per esulare un attimo dal numero, ma poi mi fermo, ci sono domande, credo anche che questi momenti di sospensione che stiamo vivendo, il primo soprattutto, il primo lockdown è stato molto utile per ragionare sulle dinamiche, no? Quando il mondo più o meno era chiuso, era interessante ragionare su cosa poter cambiare. Poi tutto è ricominciato un po' uguale a prima e ci siamo anche resi conto forse che è più difficile di quello che magari si sperava in quel periodo. Però è anche vero, e lo dice una persona con cui lavoro, che si chiama Claudio Calvaresi, che ha partecipato anche al primo numero di Q-Code, che in questo scriveva in un pezzo che uscirà in uno studio. Scriveva che questo senso dell'attesa che stiamo respirando in realtà ci permette di prefigurare. Questa cosa è molto interessante, cioè noi in questa attesa che abbiamo tutti di capire cosa succederà dopo, come vivremo dopo, ci dovremo fare il vaccino tutti gli anni, andremo a fare il vaccino, lo spray nasale, ne escono tutti i colori ovviamente in questo momento, però ci prefiguriamo qualche cosa che possa essere il futuro e in questo senso forse stiamo anche immaginando che le cose possano cambiare. Quindi io su questo sono piuttosto ottimista che qualche cosa riusciamo forse a ottenerlo. Con un impatto, diciamo, positivo su quello che sarà l'organizzazione del lavoro, delle città, del modo di stare insieme, forse anche Speriamo. a vantaggio di una maggiore prossimità e di una minore velocità. Ma qua stiamo già su un altro tema. Quando siamo sull'ultima pagina per abbonarsi, abbiamo già detto dell'abbonamento. Quindi quando ci si abbona cosa succede? Arriva un fascicolo via posta? Arriva ogni 6 mesi un pacco con il singolo numero, perché non ricevi entrambi i numeri, essendo un semestrale. Prima hai, facciamo l'esempio molto pratico, se ti abbonassi oggi ti arriverebbe Paure a casa, e poi fra 6 mesi a maggio, solitamente la terza settimana di maggio, ti verrebbe recapitato Impatti. Quindi anche un tempo di lettura, volendo dilatato, in cui uno ha proprio la possibilità di approfondire e di leggere articolo per articolo in attesa poi del successivo numero, e magari anche sfruttando poi l'online di Q-Code per magari approfondire alcuni temi affrontati e che si vogliono scandagliare con più attenzione. E l'online è ad accesso completamente libero, diciamolo, e Gratuito. libero, Gratuito. gratuito, e l'abbonamento comporta un volume in cartaceo, ma non il volume in PDF, così? Eh sì, assolutamente. Crediamo nella carta, come scherzavamo io e Angelo quando ci siamo visti fuori onda, che ha ritirato le copie di Paure, che profumo ha. Crediamo fortemente nella carta, che anche la lettura sia cartacea riesca a dilatare quei tempi e dare quel ritorno anche emozionale di un approfondimento come quello che si cerca nel momento in cui si produce un prodotto del genere. Io faccio una piccola postilla in quanto casa editrice, me lo permetterete. Prima qualche domanda fa, Eleonora faceva riferimento alla situazione delle donne in Polonia che stanno scendendo in piazza per affermare i propri diritti. Ieri era il 25 di novembre, giornata internazionale contro la violenza sulle donne, e per Prospero Editore è uscito il primo numero di una nuova collana di saggi che si chiama Il Mosaico. E questo primo numero del Mosaico è stato fatto a cura di Cinzia Settembrini in collaborazione con Obiezione Respinta, il movimento di Non Una di Meno, e si chiama appunto Obiezione Respinta, perché è un tema forte anche nella nostra penisola. La 194 come legge è stata approvata più di 40 anni fa, eppure in alcune regioni sembra un diritto che non si riesce mai a raggiungere. Ci sono ospedali in cui ci sono solo obiettori di coscienza e quindi l'accesso all'aborto viene in qualche modo reso impossibile o un processo ancora più doloroso rispetto a quello che dovrebbe essere una scelta personale che viene mal giudicata, mal criticata, mal vista e malfunzionata, permettetemi questa parola, ma che proprio ci sono degli ostacoli fisici al raggiungimento della propria scelta. Quindi volevo anche segnalare questo titolo per riuscire ad approfondire anche un tema forte sentito in Italia e a sostenere anche il lavoro che fa Obiezione Respinta con i propri presidi e le proprie campagne sul territorio italiano. Scusate No, i consigli per acquisti, ma mi fatto sembrava benissimo. doveroso poterlo fare. Ecco, io voglio soltanto aggiungere invece che noi diamo l'abbonamento per i due numeri, si parte col numero, come diceva Alice, si partirebbe con paura il prossimo impatti. Nulla vieta di andare sul sito di Prospero Editore, Anzi. prosperoeditore.it, e di acquistare anche gli altri numeri, nel senso che muri e identità non sono numeri che passano nel tempo e che Non invecchiano, scadono. ma non scadono perché sono pensati in maniera fredda, quindi in realtà sono come dei libri. È una rivista libro e quindi sono i reportage, le interviste, tutto quello che avete visto come formati che utilizziamo sono in realtà a disposizione. Semplicemente questi saranno gli ultimi due che usciranno in tempo cronologico. Questo è uscito e l'altro a maggio. E mi permetto di dire anche che sono numeri che vi stupiranno tutte le volte, perché se uno pensa al numero di muri, pensa solo che si parli di muri fisici, mattoni su mattoni, quindi alle barriere, delle frontiere, che è un tema caldissimo negli ultimi anni. In realtà sono muri anche metafisici, le barriere sociali per l'ascesa della propria posizione sociale, o i muri scolastici, i muri delle carceri, muri mafiosi, l'omertà mafiosa è spesso un muro e via discorrendo. Quindi i linguaggi sono diversi, ma vi sanno cogliere anche con letture differenti di un tema che sembra banale, ma che non lo è, ecco. Bene, siamo precise, precisi nell'ora. Domande dal pubblico non ne sono arrivate. È arrivata un'affermazione di Luca Grignani: il pensiero nasce dall'azione. E quindi la riportiamo, che ci riporta alla vecchio nesso teoria, prassi, prassi, teoria, che se una va senza l'altra non va. Io le mie domande, i miei commenti li ho fatti lungo la strada, e quindi se dal pubblico che legge che guarda su Facebook non ci sono altre domande o se voi non avete altre precisazioni, Ma guarda, forse sì. l'unica cosa che avevamo promesso e non abbiamo fatto era dire da dove nasce il nome di Q-Code. Questo Giusto. forse lo possiamo dire in poche parole. Q-Code nasce da un brainstorming piuttosto faticoso di una sera in cui cercavamo il titolo da dare al sito. Il Q-Code è uno dei primi codici che è stato inventato a livello internazionale per mettere in collegamento, scusate, i mezzi di trasporto, soprattutto. Quindi è un codice di tre lettere, sono tre consonanti, la prima è sempre la Q e poi le altre due cambiano e a seconda di come giocano le due successive hanno un significato. E quindi il fatto di poter dire tre lettere che significassero se il mare era calmo oppure no e rispondere con altre tre lettere che dicevano se sì o se no, era già un passo in avanti molto significativo per quei tempi. Insomma, che cos'è? È un codice. Ed essendo un codice, per noi era la parola migliore per battezzare un giornale, prima online e poi anche cartaceo, che ci desse gli strumenti di interpretazione del mondo. Io penso che sia questo, ma il fatto di avere un contesto e di saperlo interpretare, forse è la vera missione che ci siamo dati, per quanto riguarda la nostra maniera di fare giornalismo. La parola che avete scelto a me ha fatto venire in mente il QR code e Il quindi in QR code qualche nasce modo, dal Q code, ecco, esatto. adesso vedi, no, non lo sapevo, comunque collegamenti, link, ipertesti di cui abbiamo bisogno. Prima di chiudere, io vorrei ringraziare anche Lorenzo, che non si vede ma è in regia. Grazie È Lorenzo. per questo che abbiamo la mascherina e che ha fatto la ola, veramente applausi a manetta quando avete parlato della carta e che ha reso possibile, insomma, questo podcast e questo collegamento. Bene, Grazie per l'ospitalità. grazie a voi, vi aspettiamo a ZAM, quello fisico, al più presto possibile, speriamo. Speriamo. Grazie. Grazie Buona serata. a tutti voi. Ciao.